Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, bentornati al nostro appuntamento con la stampa periodica. Vediamo che cosa ci propongono questa settimana i periodici italiani, ma non solo italiani, anche esteri. Cominciamo con qualche novità tecnologica. Avevamo parlato, se vi ricordate, chi segue questo appuntamento tutti i sabati lo sa, di queste modalità di produzione dell'energia assolutamente innovative. Queste tecnologie per sfruttare l'energia che in qualche modo produciamo anche inconsapevolmente e che si potrebbe cercare di mettere a frutto. Ritroviamo un'analisi dedicata proprio a questo tema su Newsweek questa settimana. Sophie Groove, in un articolo intitolato Buone vibrazioni, vibrazioni positive, segnala che si stanno facendo delle ricerche molto importanti in giro per il mondo. Lei cita alcune ricerche che si stanno facendo all'Imperial College di Londra per mettere a punto dei meccanismi bionic alimentati dalla potenza del movimento umano. Non so, una ginocchiera ad esempio che mentre che uno cammina permette di caricare una dinamo. La cosa sembra molto futuribile, ma in realtà, come ci informa appunto Newsweek, è invece più vicino all'applicazione di quello che si pensi. Ad esempio a Londra stanno pensando di attrezzare una discoteca con un pavimento, una pista da ballo, che possa catturare le vibrazioni trasmesse dai ballerini sulla pista per alimentare una produzione di energia elettrica e ridurre così, spiega Sophie Groove, la bolletta elettrica del club. La cosa è molto molto avanzata su tanti livelli, appunto non solo camminare ma anche correre. Si pensa anche delle applicazioni nelle stazioni della metropolitana, ad esempio. Mi ha colpito questo articolo perché, come vi dicevo, Newsweek di questa settimana riprende in realtà una cosa che avevamo visto su Focus, il mensile in edicola, che ci segnala tutta una serie di prodotti più o meno futuribili in un'inchiesta che è intitolata appunto Viaggiare senza petrolio. Lì avevamo trovato la ginocchiera che traduce in elettricità la capacità di movimento, il movimento di una persona, ma in realtà quello che si sta studiando è ad esempio macchine con pannelli fotovoltaici sul tetto che possono contribuire alla ricarica delle batterie, oppure il treno ibrido, cioè che produce corrente elettrica nelle fasi di frenata, così come avviene su alcune vetture che sono già in commercio. Insomma, la tecnologia, diciamo, sta un po' invadendo tutti i campi della nostra vita, cercando anche di sfruttare e di risolvere un problema che preoccupa un po' tutti, cioè la produzione di energia compatibile. Avete visto che l'Espresso proprio ieri in edicola segnalava l'ecologia ci salverà. Si tratta di un tema di cui abbiamo parlato in diverse occasioni. L'uscita da questa crisi economica potrebbe essere dettata proprio dall'utilizzo di tecnologie meno inquinanti e modalità di produzione di energia più amiche dell'ambiente o comunque più efficienti, in grado di dare appunto maggiore sforzo, maggiore capacità energetica a tutto all'industria e alla nostra vita quotidiana. Cambiamo completamente argomento e parliamo di pubblicità. Non so qual è il vostro rapporto con la pubblicità, diciamo che tutti abbiamo più o meno imparato a conviverci, però Giorgio Bocca ieri sul Venerdì, nella sua rubrica Fatti Nostri, ha scritto poche ma sentite righe sulla invadenza della pubblicità. Dice, racconta Bocca, una vecchia amica mi scrive dalla Toscana, le hanno interrotto internet, come mai questa cosa? L'amica in realtà, riferisce Bocca, aveva accettato l'offerta di passaggio da una compagnia all'altra, risultato sostanzialmente è rimasta senza il collegamento. Dice, 6 giorni dopo la telefonata invitante e minatoria, le sospendono il collegamento, protesta, implora, minaccia, la voce promette che il servizio sarà ripristinato salvo pagamento dell'operazione 96 euro. Ora l'avvertenza è in mano agli avvocati. Ma il commento di Bocca è molto interessante, dice, credevamo di esagerare, quando scrivevamo che la pubblicità avrebbe invaso e sommerso tutti e tutto. Ma ora, con il telefono, i fax e internet, ci arriva in casa di giorno e fino a notte fonda, senza soste, senza più limiti e rispetto. E come se non bastasse, ecco l'uso e l'abuso della privacy. Ci sono grandi aziende alle quali è praticamente impossibile telefonare per segnalare un disservizio, salvo che tu fornisca al momento il tuo numero di contratto che hai messo chissà dove. Commento di Bocca: che strana società abbiamo messo insieme, che al tempo stesso moltiplica le informazioni e le blocca. Ecco, su questo ossimoro con cui ci troviamo a convivere, devo dire, mi riconosco abbastanza. È vero che c'è una invadenza notevole della pubblicità un po' in tutti i campi, ma guardate, non tutti in realtà pensano che sia un male, perché ad esempio sul Corriere della Sera Magazine Paolo Conti, nella sua rubrica Contrappassi, ci avvisa che ci sono due musicisti importanti, si tratta di Franco Battiato e Roberto Cacciapaglia, che guardano con favore alla pubblicità. Riferisce Conti: Franco Battiato lascia trapelare un filo di nostalgia. Se una volta, dice Battiato, sul palco dei concerti al Parco Lambro di Milano ci fosse stato anche solo un tappo di Coca-Cola, il pubblico avrebbe spaccato tutto. Adesso gli sponsor sono quasi più importanti dell'artista. Rimpianto di Battiato è palpabile, dice: la musica leggera in quei tempi era primitiva e piena di gioia di vivere, ma ormai non è più così. Colpa degli sponsor, si chiede Conti, chissà, il dubbio rimane nell'aria. Ma Roberto Cacciapaglia, che è un compositore multiforme, autore di colonne sonore per la pubblicità, guarda invece alla contemporaneità. Tanta gente mi racconta di aver colto, nei pochi secondi dello spot, la forza di un suono che non nasce per essere sottofondo. Anche se al servizio di un prodotto, il suono intenso arriva alla gente per quello che veramente è. È il nuovo millennio, anche se non piace. Beh, in realtà non è detto che non piaccia, probabilmente si tratta di imparare a conviverci rapidamente e velocemente, così come i mezzi di pubblicitari dimostrano di sapersi evolvere. C'è un altro posto del mondo che cresce molto rapidamente ed è naturalmente la Cina. Della Cina abbiamo parlato per anni, abbiamo ammirato anche la sua capacità di sviluppo impressionante, con capacità appunto di crescita a due cifre percentuali di anno in anno. Adesso però alcuni segnali ci avvisano che il modello cinese ha dei problemi. Vi segnalo due cose. L'una è da Newsweek. Newsweek avverte, nella rubrica curata da Farid Zakaria, che uno dei passaggi più cruciali per la transizione dal presidente Bush al presidente eletto Barack Obama sarà l'indicazione del rapporto con la Cina. Scrive Zakaria: ognuno sa che la Cina è una delle potenze maggiori e la rappresentativa americana in Cina è importante, ma in questo momento abbiamo bisogno di Pechino come mai prima. Perché? Perché la Cina è la chiave per l'America che vuole uscire dalla crisi economica. In settembre Pechino è diventato il più importante creditore degli Stati Uniti, sorpassando il Giappone, e si è assicurata tutta una parte importante, la parte più importante del debito americano. La gente spesso dice che la Cina e l'America, sono sempre parole di Zakaria, sono dipendenti l'una dall'altra in modo uguale, ma questo non sarà vero più tanto a lungo, perché la Cina ha due modi di sostenere la sua crescita economica. L'uno è finanziare il consumo americano, ma l'altro, avverte Zakaria, è quello di finanziare i suoi propri consumi. Ecco, la Cina, che si trova di fronte alla crisi economica internazionale, ma anche un problema di sviluppo interno e anche di capacità di gestire lo sviluppo interno, viene ripresa sullo stesso numero di Newsweek in un'inchiesta fatta da George Verfritz, che si intitola significativamente "Perché Pechino è in una posizione pericolosa". Tra l'altro, dice, si riferisce in questa inchiesta, che vi sono immagini prima non familiari che adesso invece lo stanno diventando, ad esempio bancarotta, la bancarotta delle aziende, le porte chiuse di attività che hanno cessato e un numero sempre maggiore di lavoratori rimasti senza lavoro, rimasti disoccupati. Dice, stanno diventando delle visioni oramai, delle immagini ormai familiari in Cina. Un altro problema, magari un po' più piccolo, ma sempre relativo alla Cina, viene dal magazine del Corriere, dove ci avvertono che i tassisti di mezza Cina si stanno fermando perché troppi abusivi, percentuali insostenibili alle compagnie, stipendi da fame, così dalle megalopoli alle periferie scoppia la protesta. Marco Del Corona è l'autore dell'inchiesta, c'è anche una cartina che segnala una 7-8 località della Cina, anche importanti, naturalmente Pechino ma anche Shanghai o Canton, che sono le principali località toccate da questa protesta dei tassisti che si trovano appunto a combattere contro stipendi, salari troppo bassi e troppa concorrenza. E sempre per riprendere le cose che non vanno mica tanto bene nei luoghi un po' più lontani da noi, vi segnalo un articolo sulle Nouvelle Observateur di questa settimana. Ci parla della crisi immobiliare a Dubai. Che cosa è successo? È successo che Dubai è stata a lungo un posto dove conveniva la speculazione immobiliare, i prezzi, i valori delle case salivano del 15-20% ogni anno e quindi era anche facile entrare in una cantiere di casa in costruzione e poi magari cedere questa casa ancora prima che fosse costruita. Le cose però stanno bruscamente frenando, ci avverte le Nouvelle Observateur. Magazine 24. Bentornati alla nostra rassegna stampa dei periodici. Stavamo parlando di crisi in luoghi lontani da noi, così parliamo magari un po' meno della crisi che preoccupa di più casa nostra. Stavo dicendo che sul Nouvel Observateur di questa settimana segnalano questa vicenda della speculazione immobiliare a Dubai. Il significativo titolo dell'articolo di Natasha Tatou è Dubai, la festa è finita. La festa è finita perché, come spiega appunto la Tatou, in giugno Dubai riusciva a concentrare il 20% delle gru che erano presenti sul pianeta, su tutta la terra quindi, ma in un mese, invece nell'ultimo mese, i prezzi si sono abbassati ufficialmente del 15%, ma in realtà probabilmente di molto di più. La storia, tra l'altro, l'articolo parte da una gustosa storia di due signori, due piccoli commercianti vengono descritti, Patrick e Sophie, che hanno deciso di lanciarsi nella speculazione immobiliare di Dubai, però proprio solo negli ultimi due mesi, cioè quando la festa stava finendo. E si cita la frase attribuita a Warren Buffett: quando il mio autista mi dice che investirà in borsa, io capisco che è il momento di vendere. Ecco, c'è un po' la sensazione della beffa per questi due investitori, risparmiatori comuni, che erano convinti di aver trovato un punto favorevole dove investire e che invece si sono ritrovati schiacciati da un cambiamento tanto repentino quanto sembrerebbe non così prevedibile. E allora, prevedibile o imprevedibile? In questi anni, in questi decenni, verrebbe da dire, noi abbiamo attribuito un valore sempre maggiore alla genetica, al DNA. Secondo alcuni, il DNA contiene un po' tutta la nostra storia, quasi che fosse il nostro destino e non l'ambiente che ci circonda poi avesse un'influenza abbastanza ridotta. In realtà sono i nostri geni che decidono della nostra vita. Le cose sembrano stare prendendo un'altra direzione, forse la direzione non è mai stata questa, forse questa è una semplificazione, chissà, è sembrato a noi nel percepire le ultime scoperte scientifiche, ma come ci avvisa Newsweek nella sua rubrica dedicata alle scienze, affidata a Sharon Bigley, si sta ragionando adesso sul DNA quando il DNA non è il destino. Perché? Perché ci si è accorti che sempre più ricerche segnalano che la personalità, ben lontano dall'essere semplicemente incardinata nei geni, è invece una cosa flessibile e dinamica che cambia attraverso le abitudini di vita e le esperienze. Devo dire che riletta così anche insieme a voi, questa sembra quasi una scoperta dell'ovvio, perché non avremmo effettivamente pensato che i geni potessero così tanto influenzare la nostra vita da condizionare anche le nostre decisioni. Ma l'articolo di Sharon Begley va avanti riferendo di queste ricerche di neuroscienziati che nelle università americane stanno mettendo a punto un modello, un approccio al DNA abbastanza diverso da quello abituale. Non è una, spiegano, una specie di tavolozza che poi meccanicamente influirà sui nostri comportamenti, ma invece è qualcosa di dinamico che risponde alle esperienze della vita. Quindi il DNA non è il destino, possiamo cambiare i nostri comportamenti, le cose possono cambiare, come infatti appunto verrebbe da dire sono cambiate in America con l'elezione di Barack Obama. C'è un contributo, lo prelevo sempre da Newsweek, di Alison Samuels. Ricorderete, qualche settimana fa avevamo visto uno stesso articolo della Samuels che diceva quanto era importante, oltre all'elezione di Obama, la presenza di una first lady di colore alla Casa Bianca. Ecco, ritorna proprio su questo tema la Alison Samuels e dice: la nuova first lady avrà la possibilità di far cadere gli stereotipi antipatici che gravano sulle donne di colore e di spiegare al mondo in modo più diffuso qual è il portato, qual è il contributo delle donne afroamericane alla cultura americana. Ha il modo di cambiare, e questa è secondo Alison Samuels la cosa più importante, ha la possibilità Michelle Obama di cambiare quello che le donne afroamericane pensano di se stesse, delle loro possibilità, delle loro vite. Questo è il mandato abbastanza importante, devo dire, della consorte del presidente eletto degli Stati Uniti d'America. Sempre per parlare di cose straniere, ma questa volta di casa nostra, vi segnalo che con il Sole 24 Ore trovate da ieri in edicola Badandum 2009. Badandum 2009 è un libro agenda che è stato pensato in 8 lingue per essere di aiuto sia alle famiglie sia alle loro collaboratrici, alle badanti, a persone insomma che aiutano le famiglie italiane e che spesso sono straniere. La collaborazione tra appunto il Sole 24 Ore e il Centro Studi Cure Domiciliari ha portato alla redazione di questa agenda, un libro agenda che è redatto in 8 lingue, giorno dopo giorno consiglia alla famiglia nella gestione migliore del lavoro di cura delle badanti e allo stesso tempo fornisce alle badanti le giuste prassi per prendersi cura degli anziani fragili. Trovate Badandum in edicola con il Sole 24 Ore, è in vendita a 9,90 euro che vanno aggiunti poi al prezzo del quotidiano. Allora continuiamo con le questioni che vengono, suggestioni che vengono dall'estero. Abbiamo parlato molto di Cina, molto di stranieri in Italia, questioni straniere rispetto all'Italia. Preleviamo dal Nouvel Observateur una segnalazione interessante che riguarda invece la poca voglia di essere internazionali degli studenti francesi. Di cosa si è accorto il Nouvel Observateur? Che Erasmus, cioè il programma di interscambio degli studenti universitari che consente di appunto trascorrere alcuni periodi degli studi universitari in altri paesi, sta subendo un calo nel suo appeal, un calo di adesioni. Nonostante appunto il bel film che qualcuno di voi ricorderà, penso all'Appartamento Spagnolo, che aveva fatto un'ottima pubblicità alla Erasmus, dice il Nouvel Observateur, la mitologia non tiene più la realtà. Ci sono state 4.000 borse Erasmus su 27.000 che non sono state utilizzate nel 2008 e più in generale i giovani francesi non studiano abbastanza all'estero, tanto che appunto Jacqueline Delinard, che firma questo articolo sul Nouvel Observateur, segnala la preoccupazione delle autorità dell'istruzione francesi per questo calo di interesse per Erasmus. E chiudiamo con una segnalazione da una rubrica di Famiglia Cristiana, Punto di Vista, di Francesco Belletti, che è direttore del Centro Internazionale Studi Famiglia, si occupa delle tasse e delle famiglie. veniamo da queste decisioni governative a sostegno appunto delle famiglie e dell'economia, ma Francesco Belletti dice: attenzione, qui non si tratta di dare interventi una tantum e sostegni solo a famiglie disagiate, ma invece di attivare una politica fiscale maggiormente efficace e più stabile, più duratura. Bisogna abbandonare, dice appunto Belletti, il criterio che è un solo di tipo riparatorio assistenziale per adottare politiche economiche audaci per un fisco a misura di famiglia e quindi una no tax area familiare. È un argomento di cui si parla da molti anni, tecnicamente non è semplice. Devo dire che i vari governi, pur avendo provato a avviare dei sistemi di sostegno più complessivi, hanno poi però sempre tenuto fisso la capacità di intervenire solo sul singolo dal punto di vista fiscale. E con questo il tempo a nostra disposizione è scaduto. Vi ricordo che sul Sole 24 Ore, con il Sole 24 Ore in edicola, trovate anche i Viaggi del Sole, dedicato questo mese a Seychelles e Mauritius. Io ringrazio Pietro Lacorte per l'assistenza tecnica, Daniele Casagrande per l'aiuto alla redazione di questo programma e vi do appuntamento alla prossima settimana.